Mix 24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Matteo Salvini, 42 anni, milanese, divorziato con due figli, giornalista, parlamentare ed europarlamentare. Laureando in storia dopo 16 anni interrompe gli studi perché dice arriverà prima la Padania della mia laurea. Nella Lega Nord dal 90 lavora come cronista alla Padania e dice un'esperienza affascinante. Dal 15 dicembre 2013, dopo Bossi e Maroni, è il terzo segretario federale della Lega Nord. Adesso, nel giorno in cui la sua nemica Angela Merkel è incoronata donna dell'anno per aver salvato l'Europa, lui attacca il governatore della Banca d'Italia sul decreto salva banche e dopo la vittoria in Francia del Front National dice la Le Pen e Putin sono i più grandi statisti del momento. Allora, onorevole Salvini, ma Berlusconi, che è amico di Putin più di lei, non è nel suo gota? No, ha fatto tantissimo, però la storia impone di guardare avanti. Senta, allora la vittoria della Le Pen in Francia cambierà l'Europa? Sì, anche perché viene dopo il voto polacco, il voto ungherese, il voto austriaco. Ma sarà la fine dell'euro? Non lo decido né io né la Le Pen. L'euro è un esperimento sbagliato che finirà e che... Ma lei è per l'uscita dell'Italia dall'euro? Ma io sono per il rilancio dell'economia italiana, che passa attraverso una moneta diversa. E non teme un disastro nell'uscita dell'euro? Il disastro c'è oggi. Tutti i rischi che mi dicono se usciamo dall'euro succede questo, sono già successi. Con l'euro in tasca, tanto che i tre paesi europei che crescono di più non hanno l'euro in tasca. Senta, ma da oggi l'Europa guida tedesca allora vacilla? Vacilla da ieri, dall'altro ieri, perché è stata creata come un centro commerciale. Ma la Francia, con il debito che ha, può sopravvivere senza l'aiuto della Germania? Il debito aumenta se la disoccupazione aumenta, come in Italia. Ma se la gente non lavora non paga le tasse. Ma sul piano fiscale lei dice che risolverebbe tutto con la flat tax. Cioè... No, tutto. Vabbè, tutto. Molto. Nessuno risolve tutto. La semplificazione. In Italia gli artigiani e gli imprenditori vogliono semplicità. Il 31 dicembre mi dai il 15% di quello che ha incassato. Sconfiggo l'evasione fiscale, ritorno attrattivo e lo Stato sta in piedi. Anche la Le Pen è d'accordo su questa soluzione? Non ne ho mai parlato con lei. Non ne ha mai parlato? No, perché lei ha detto che a gennaio presenterete un piano comune per l'Europa. Che riguarda cosa? Revisione dei trattati, tutti. Io voglio stare in Europa, ma in un'Europa diversa. Cioè, rifare Maastricht? Maastricht, Schengen, Dublino, tutti i trattati dal primo all'ultimo e riaggiornarli dopo 20 anni, 30 anni. Senta, la Le Pen però è nazionalista e patriota, mentre voi siete secessionisti. Due visioni opposte dello Stato, come possono convivere? Noi siamo autonomisti, dal Salento al Friuli Venezia Giulia, passando per la Sardegna. Quindi questa è una visione diversa dello Stato. Secondo me lo Stato deve fare poche cose e farle bene. Forse per me in Italia io cancellerei le sovrintendenze, le prefetture, i monopoli, la SIAE. Cioè quello che controlla poco e male lo cancellerei. Senta, però nel Veneto voi avete addirittura detto un referendum per separarvi dall'Italia. Allora questo non convive tanto con la Le Pen. No, ma io sono per l'Italia che sta insieme e rispetta le diversità. Poi i cittadini devono poter scegliere in Salento, in Sardegna, in Friuli, e in quindi, Tirolo. Allora Zaia, che considera un potenziale, che lei considera un potenziale leader, un bravissimo governatore, qui ha detto che per lui la Catalogna secessionista è un modello, per lei lo è? Catalogna è un modello economico di sviluppo, di tutela delle politico. Culture locali. Ripeto, a me piacerebbe l'Italia di Miglio, l'Italia della carta di Chivasso della Resistenza, che valorizza i suoi 1000 campanili e sta insieme. Insomma, Zaia ha ragione o torto a volere... Zaia ha sempre ragione. Ha sempre ragione, Zaia, questo è importante. Anche perché governa da Dio. Senta, ma quello ma della Le Pen a lei cosa piace di più? Il coraggio e la schiettezza. E di meno? Niente. Niente, la vedo la settimana prossima, non posso dire che non mi piace qualcosa. No, non condivido la sua idea di laicità assoluta. Secondo me l'uomo senza Dio, qualunque Dio, è a metà. Cioè, c'è la nipote che compensa. È vero. Senta, onorevole Salvini, Enrico Letta da Parigi, dove vive, ha detto che il terrorismo non c'entra con la vittoria della Le Pen. Lei è d'accordo? Sono d'accordo, infatti ha preso meno voti a Parigi rispetto al resto della Francia. Cioè una vittoria che è dovuta più a un disagio sociale preesistente che al terrorismo. Ha una proposta diversa sul lavoro. È la più votata dagli operai, dagli artigiani, dagli agricoltori, dai produttori in generale. Chi produce ha votato Le Pen, quindi questo è un segnale al di là del terrorismo. Senta, in Francia il 35% dei giovani ha votato la Le Pen. Qui vota 5 Stelle, perché? Per molti per protesta, ma adesso fortunatamente anche la Lega è secondo partito in Italia presso i giovanissimi, perché abbiamo dato un'idea concreta e diversa rispetto alla Lega del passato. Senta, intanto a Bologna sul palco con Berlusconi, la Meloni, lei ha rifondato il centrodestra. Quindi Berlusconi non è più il vecchio da mettere da me che da parte, ma l'alleato anche per il futuro, mi pare. No, se vado da solo mi rimproverano che vado da solo. Se allargo mi rimproverano perché... Voglio preparare qualcosa di diverso rispetto al passato. Berlusconi rappresenta ancora milioni di italiani. Ma non è il potenziale leader centrodestra. Ah, lo decidono gli elettori. Né io, né lei, né Berlusconi. Lo decidono gli elettori. In questo momento gli italiani dicono che... È lei. Che è la Lega, cioè, il traino. Beh, per adesso lo dicono i sondaggi, diciamo. Sì. Sondaggi, ma anche le ultime elezioni in Veneto, in Liguria, in Emilia. Senta, ma perché quando sente parlare di centrodestra lei si sente male? Perché sono categorie superate, secondo me. Cioè, cancellare la legge Fornero, che è una legge infame, cos'è, di destra o di sinistra? Cancellare gli studi di settore. Quindi centrodestra fa schifo. È una parola che fa schifo. Poi mi viene in mente Alfano, nuovo centrodestra, quindi mi infastidisce. E lei come lo chiama? Come lo chiamerebbe? Proposte e basta. Proposte per l'Italia. Produttori. Io differenzio fra chi produce idee, chi produce lavoro, chi produce fatica, chi produce innovazione e chi viene assistito. Senta, il Fatto Quotidiano, usando delle intercettazioni, ha parlato di ricatti di Berlusconi nei suoi confronti. Ma lei cosa risponde? Il modo migliore per farmi cazzare e andare da solo è ricattarmi, quindi se qualcuno mai l'avesse fatto avrebbe sortito un risultato contrario. Quindi non c'è rischio. Senta, ma quanto pesa tuttora però la potenza mediatica di Berlusconi nella costruzione di questa alleanza? No, non faccio scelte in base alle presenze o alle assenze televisive, anche perché sulle reti medie se c'è più sinistra che altro. Senta, lei e Renzi siete sempre comunque in televisione, in radio, sui giornali. È una strategia obbligata? È un mio dovere. È il mio dovere. Perché? Andare settimana prossima 4 giorni a Strasburgo quando c'è sessione, quando il Parlamento è chiuso, evidentemente evito di fare il vacanziere, e comunicare quello che ho fatto e soprattutto quello che vorrei fare. Senta, ma un politico se va sempre in televisione, alla radio, quando lavora? No, ma guardi, la giornata fortunatamente è 24 ore. Sì, ma voi io oggi sto con lei tanto? Mezz'oretta. Oggi pomeriggio alle 3:30 sono ad Arezzo. Nel pomeriggio sono a Firenze. Sabato sono a Torino. Domenica sono a Genova. Vabbè, lavora. Potrei starmene a casa nel weekend. Ma è facile? È così facile davvero avere ogni giorno però qualcosa di importante da dire? Quando non ho niente da dire taccio. Stamattina da lei sono contento perché riusciamo a spiegare pacatamente senza urlare un modello d'Italia diverso, con un po' meno Stato, un po' meno tasse. Senta, ma lei non crede che troppa comunicazione per come viene fatta uccide i contenuti? Sì, se non hai niente da dire, sì, mi dicono sei bravo a comunicare. Io non penso che lei mi inviti o gli altri mi inviti perché son simpatico, no. Ho il capello corto. Evidentemente se la gente segue è perché comunichi anche qualcosa. Ripeto, quando spieghi perché un'aliquota fiscale unica del 15% ti tiene in piedi lo Stato e rilancia l'economia liberando miliardi di euro di risorse, o lo comunico alla radio, certo, o se lo comunico nel tinello di casa mia. Basta poco, serve a poco. Senta, adesso dovete scegliere i candidati sindaci per le elezioni. Molti uomini immagine dicono no. È cambiato qualcosa nel rapporto tra politica e comunicazione? Prima correvano tutti. Perché è il mestiere più bello, più difficile e meno pagato del mondo. Cioè, quello sindaci, della politica? Quello del sindaco. Ah, del sindaco. No, quello del sindaco, che è la cosa che mi piacerebbe fare di più perché è quello più concreto, più diretto. Quindi a Milano va lei? La prossima volta, se i milanesi vorranno. Adesso, sì. Questa volta no? Se fossi sindaco di Milano come faccio ad andare a Arezzo, a Firenze, a Torino, bene, a Genova, okay, a Salerno? Non riesce a costruire la Lega. Senta, comunque in Europa dove lo scontro sarà molto duro, Berlusconi sta al governo, lei sta all'opposizione. Nessun problema? No, è perché? Un problema. Questo è un problema da chiarire prima delle prossime elezioni, perché se io vinco voglio parlare una lingua unica a Roma, a Milano e a Bruxelles. In questo momento io contesto il governo unico PD Forza Italia di Bruxelles. E cosa vi manca per capirvi su questo punto? Prendere atto che l'Europa o cambia o non è. E quindi stare in un partito che vuole ad esempio la Turchia in Europa. Non esiste la Turchia in Europa, non ha senso la Turchia in Europa. Anche Gheddafi diceva che era una follia. Senta, comunque d'accordo oppure no? I candidati sindaci per Milano, Roma e Napoli non li avete ancora, non è un po' tardi? Entro Capodanno ho detto che dobbiamo cominciare e cominceremo. Cominciare cioè averli? Certo, cominciare. I programmi ci sono perché ci abbiamo lavorato negli scorsi mesi. Adesso ci vuole la ciliegina sulla torta. Il portavoce. Senta, ma a Milano se Sallusti accetta è un buon portavoce per lei. Sallusti mi piace professionalmente e personalmente, fortunatamente ci sono altre persone che si sono fatte avanti. Cioè Passera, sceglieremo. Per esempio? No, chi ha fatto il ministro con la Fornero non avrà mai il sostegno di Matteo Salvini e della Lega. Senta, ma Fornero, visto che ha ancora il coraggio di parlare, dopo i danni che ha fatto, ha ancora il coraggio. Lei sì, io mi vergognerei di andare in televisione se fossi nella Fornero. Ma lei ha un suo nome, sì, ce l'ha. Sì, però non lo dico stamattina. Facciamo un titolo. No. Sia gentile. Po' di minga. Senta, Roma Marchini va bene, eh? Non lo conosco, lo apprezzo per l'opposizione che ha fatto. Non l'ho mai incontrato, lo incontrerò volentieri. Ha fatto una bella opposizione. Mi sembra un po' troppo ecumenico. Nel senso, andar bene a tutti, o sei un genio. Questo è quello che non le piace di lui, sì. Che va bene a tutti, sì. Dovrebbe odiare un po'. No, odiare però qualcuno. Non puoi fare le primarie col PD una volta e però non lo conosco, quindi non voglio dare dei pregiudizi. Molti pregiudicano Salvini senza conoscere. Io prima lo voglio conoscere. Non l'hai mai incontrato? No. Senta, per essere leader nazionale bisogna uscire dal regionalismo. Ecco, Roma Ladrona è archiviata per sempre, quindi. Beh, adesso c'è Mafia Capitale, purtroppo. Vabbè, voi avete archiviato Roma Ladrona. Io ritengo, e lo ripeto, che l'Italia abbia delle diversità stupende da valorizzare e starà insieme solo se le valorizzerà. Le autonomie, ecco, Renzi centralizza tutto. Ha fatto una riforma in cui decide tutto lo Stato, decide tutto Roma. Mentre il mondo va al contrario, il mio modello è la Svizzera, è la Germania, è l'Australia, è il Canada. Sì, non però le regioni non è che sono state un trionfo. Ah, io le ridurrei a tre. Vabbè. Io le ridurrei a tre. Va bene, quindi, insomma... Bisogna ridisegnarlo questo Stato completamente. Ma che cosa resta di Bossi nella Lega di Salvini? L'intuizione geniale del fatto che il potere deve essere più vicino possibile ai cittadini. E poi gli sarò sempre riconoscente, perché se sono qua da lei oggi è perché mi ha affascinato lui 25 anni fa. Ma l'uomo Bossi cosa rappresenta per lei? Questo? Sì. Come uomo? Un uomo di coraggio. Che non ha intascato una lira di denaro pubblico personalmente. Su questo nessuno mi convincerà mai del contrario. Senta, Renzi dice, non c'è problema, vinceremo noi perché le riforme cominciano a dare i frutti, è vero? I frutti di che? Non lo so. I frutti, le arance siciliane che non vengono raccolte perché arrivano dal Marocco, forse. Senta, ma c'è qualcosa che Renzi ha fatto e che lei però sì, condivide? Sì, per carità di Dio. Che cosa le piace? Ha tolto la tassa sulla prima casa. Cioè ha applicato una proposta del centrodestra? Quello che avevamo fatto noi. Aveva promesso di ridurre le prefetture, che è proprio l'ente più statalista inutile. Adesso è tornato indietro, ha detto che non le riduce, però spero che lo faccia. Senta... Ma neanche la prudenza con cui affronta il tema della guerra la convince? Non è prudenza, sono idee confuse. No, lei dice vigliaccheria, certo. E non dice che è prudenza. O di qua o di là. Quando l'ISIS fa quello che fa, non c'è da perdere tempo né da fare tavoli di dialogo. La Boldrini dice... No, non è con la stiamo forza. Parlando di Renzi. È Renzi. Beh, Renzi e Boldrini sono la stessa cosa. Noi esageriamo. Che cosa ha deciso di fare Renzi? No, ha deciso una cosa semplice. Di non decidere? No, ha deciso... Decidiamo cosa facciamo in Siria, diciamolo prima e poi allora andiamo. Se no capita come è capitato in Libia, una tragedia. Quello è stato un errore hanno fatto guerre sbagliate in Iraq, in Libia, in Serbia, in Afghanistan. A me non piace la guerra. Allora una riflessione a me in più. La guerra non piace, ma con l'ISIS l'unica risposta possibile sono le armi. Ma dato che deve passare attraverso quello che capiterà in Siria, forse sapere già che cosa si farà dopo. Se io fossi al posto di Renzi oggi starei picchettando Bruxelles e quindi ci mettiamo d'accordo? Ci mettiamo d'accordo, facciamo qualcosa. Insomma, se lei comandasse fosse al governo, rimanderebbe subito ci sarebbe un intervento, assolutamente sì. E nello scontro con Erdogan, Putin ha torto o ha ragione? Assolutamente ha ragione Putin. La Russia ha dei problemi, ma perché non la Turchia compra e finanzia l'ISIS comprando petrolio, Putin attacca l'ISIS, io sto con chi attacca i tagliagole. Sì. E questa minaccia adombrata della bomba atomica le fa paura? Non penso che ci sarà mai uno scontro atomico, però ripeto, con chi taglia la gola al prossimo nel 2015 ogni minaccia è lecita. Senta, onorevole Salvini, ma la NATO è ancora uno strumento difensivo? Da rivedere. Perché? da rivedere, perché non c'è più la guerra fredda, anche se qualcuno la vorrebbe riportare. Io voglio per i miei figli. Ma non era un equilibrio migliore quello della guerra fredda di questo di oggi, che non ha punti di riferimento? Sì, però qualcuno sta ricercando il clima da guerra fredda. Le sanzioni contro la Russia sono un'indizia da guerra fredda. Naturalmente. Quindi la NATO va rivista assolutamente, così com'è non ha più senso. Ecco, Romano, l'ambasciatore Romano ieri qui ci ha detto che la NATO per esistere deve inventarsi un nemico. Sono d'accordo con Romano, infatti si è inventato il nemico russo, ha sbagliato nemico. Quindi le sanzioni vanno abolite e la NATO, lei l'abolirebbe? No, come l'Europa, la rifondo, la ripenso. Ma come per fare cosa? Uno strumento difensivo, punto, ma se non interviene la NATO adesso contro l'ISIS, che cosa deve difendere? E quindi? E quindi bisognerebbe ripensare alla NATO. Alcuni compagni di viaggio che mi aiutano a difendermi sulla carta, ma finanziano l'ISIS, Allora, per esempio, per riformarla, dovrebbe intervenire contro la Turchia. Assolutamente. Io le sanzioni economiche le applicherei domani mattina alla Turchia e all'Arabia Saudita. Non alla NATO. Sì. Cioè, far valere l'articolo 5. Ragazzi. Chi ci attacca... Qualcuno è venuto in casa nostra a offenderci, io comunque non credo al dialogo con l'ISIS, purtroppo, però si vis pacem parabellum. Senta, Berlusconi dice che lei è bravissimo a parlare alla pancia della gente, le piace come definizione? Adesso non penso che alcuni milioni di italiani ragionino di pancia. Ma è distinto, pancia vuol dire anche istinto. Istinto e cervello. Quando io propongo di copiare la Francia sugli asili nido gratis, e la Francia ha una natalità doppia rispetto all'Italia, cos'è? Parlo alla pancia. Quando l'ordine dei dottori commercialisti dice, ragione la Lega, cancelliamo gli studi di settore. Cioè il commercialista o chi è sottoposto allo sciacallaggio dello studio di settore, cosa fa? Paga con la pancia o paga con la testa? Quindi gliel'ha detto a Berlusconi. Sì, no, per lui magari era un complimento. La pancia è importante perché l'uomo è ciò che mangia. Ogni tanto uso anche la testa, il cuore, quindi, i piedi. Quindi dice che per parare la testa non le manca niente, gli strumenti li ha tutti. No, guarda, abbiamo un programma economico. Al di là dei temi sulla sicurezza, penso che qualunque ascoltatore sull'immigrazione e sulla sicurezza abbia chiaro che la Lega vuole dei limiti e delle regole. Però quello di cui sono orgoglioso è il programma economico che andiamo costruendo. È quello delle riforme dell'Europa. È quello della revisione dei trattati. Io voglio stare in Europa, i miei figli devono crescere in Europa. Sulla revisione di Maastricht c'ha ragione Guarino. Guarino, chapeau. Giù il cappello al professor Guarino. Senta, c'è stato il primo morto per il decreto sulle banche. Lei è stato durissimo col governatore della Banca d'Italia, perché? È colpa sono sua, pagati stamattina per vigilare. Cosa vigilavano? Dove erano? Toccava Banca loro. Etruria, Cari Ferrara, Monte dei Paschi. Dove sono i vigilanti? Toccava loro? Toccava loro, dovrebbero pagare loro. C'è uno scontro con l'Europa sulla responsabilità. Però non puoi fare scaricabarile, andare a braccetto con Bruxelles. Lo fanno tutti e due, lo scaricabarile. Le colpe sono equamente distribuite, perché la nuova normativa europea sulle banche, avallata da Renzi, tira in ballo i correntisti. Quindi se salterà una banca d'ora in poi, non paga il banchiere, certo, paga chi ha il conto corrente, ma le sembra normale. Questa Europa è quella... Però, se una banca offre dei rendimenti che sono sproporzionati rispetto al mercato, vuol dire che qualcosa c'è di strano. È un dovere di chi investe i propri questo soldi. Questo è quello anche che accadde in Grecia. Però se lei prova ad andare a chiedere un mutuo e le fanno firmare fra 32 fogli un'obbligazione, tanto il denaro è sicuro e sotto il cuscino, lei cosa fa? No, questo sono d'accordo, però sono anche dell'idea. Poi c'è qualcuno che ha fatto il furbo. Sono anche dell'idea che se ti dicono ti do l'8% mentre il mercato dà il 2%, devo leggere attentamente fregatura che mi danno. E se all'obbligazionista normale dai il 2%, ma all'amico dell'amico dai l'8%. Ma certo, se c'è quello di differenza, allora poi... Ripeto, e i vigilanti cosa vigilavano? Quindi, se lei fosse al governo, chiederebbe la dimissione del governatore della Banca d'Italia. L'azzeramento della Banca d'Italia, cioè, assolutamente. Dimissione del governatore. Assolutamente. Per questa ragione? Per questa ed altre ragioni. Altre quali? Beh, insomma, la storia delle banche italiane è una storia di disastri, purtroppo, ultimamente. E la pagheranno i dipendenti, perché ci saranno tagli di decine di migliaia di posti di lavoro. Senta, delle tante cose forti che lei ha detto per parlare alla pancia testa della gente, ce n'è una di cui si pente? No. Che le dispiace aver detto, non c'è niente, pur parlando no, così io tanto sono, tutti i giorni. Io sono così. No, ma c'era quella famosa canzoncina da stadio sulla rivalità fra Milan e Napoli, sui napoletani, per carità, quella la ricanterei allo stadio in ogni strada. Però io sono come appaio, non costruisco niente. No, ma può darsi che qualcosa che dice poi si accorge che è una cazzata. Mi è capitato purtroppo di vedere invece riconoscere che quelle che sembravano cazzate... Oggi, ieri, il procuratore nazionale antiterrorismo ha detto i barconi e lo sbarco dei migranti finanzia l'ISIS. Sì. Non ragazzi, ha detto proprio quello, ma insomma... Questo era il titolo del Sole 24 Ore. Lo dicevo io, ero sciacallo, razzista, gufo. Lo dice il procuratore nazionale antiterrorismo. Ecco, forse la Lega ha il difetto di dire troppo in anticipo quello che poi purtroppo... Cioè, quindi difetti non ne ha. No, sono pieno di difetti. Uno. Sono testardo. Sono una qualità. Beh, dipende. Se mi metto in testa ragione, una cosa... Se ha ragione. Ma non sempre ho ragione. E allora mi dica una volta che ha torto. No, e guardi... Non le viene in mente. Da milanista mi dolgo e mi pento. Ah, va bene, ok. Non cambio fede, ovviamente. Naturalmente. Senta, le faccio l'ultima domanda. Parliamo dell'Islam. Sì. Nei giorni scorsi, dopo i fatti di Parigi, la guida suprema dell'Iran, l'Ayatollah Khamenei, ha scritto una lettera ai giovani occidentali e ha indicato il terrorismo come il dolore comune tra noi e voi, ha detto testualmente. Bene. Beh, non è un gesto molto importante. Sì. Sì, purtroppo... Ma perché nessuno ne parla? Perché sono rari e isolati. Perché e l'autorità più... se è come se l'avesse detto e il Papa, questo glielo firmo perché ripeto, io ieri sono stato privatamente in San Pietro alla Porta Santa, ho visitato uno dei luoghi più belli e sacri del mondo. Ognuno può credere nel Dio che vuole. Lei crede in Dio? Sì, mi piacerebbe avere più fede, però magari avrò questo regalo nel corso degli anni. Purtroppo nel nome dell'Islam applicato alla lettera non c'è rispetto per il prossimo, rispetto per la donna, rispetto per gli usi, le tradizioni. In una scuola di Reggio Emilia ci sono i genitori che stanno ritirando i bimbi da scuola perché la musica è strumento di Satana. Ma non è che invece si usa anche per alimentare la paura e non valorizzare le cose che vengono dette da autorità come Khamenei? Ma ragazzi, la paura aiuta, no, il potere. No, no. Io voglio che i miei figli crescano in un clima di serenità, appunto, dove uno può credere nel Dio che vuole, avere la lingua dei suoi genitori, ma in pace e in serenità. Negare che troppo Islam in questo momento sia fanatico, integralista e problematico è negare l'evidenza. Io voglio sconfiggere la paura. Senta, un'ultimissima domanda. Ma se in America la scelta fosse veramente alla fine tra Hillary Clinton e Donald Trump, lei chi sceglierebbe? Ad oggi sceglierei il repubblicano. Ad oggi sceglierei Donald repubblicano. Trump, eh? Ad oggi sceglierei Trump. Trump. Di cui non condivido alcuni eccessi, evidentemente. Cioè, cancellare internet mi sembra assolutamente una follia totale. Però l'ha detto. Ho capito. Io lei dice che i Clinton li abbiamo già provati. L'epopea Clinton-Obama, secondo me, è un'epopea fallimentare. Perché Clinton-Hillary è come il marito? La politica democratica ha funzionato internamente, ma a livello internazionale Clinton prima e Obama poi hanno fatto solo disastri. Ci hanno lasciato un'eredità difficile da sostenere. Certo, Trump sembra abbastanza effervescente a volte, alcune uscite non puoi dire, lo diceva anche Monsignor Biffi, è più facile integrare un'immigrazione di cultura cristiana cattolica rispetto a un'immigrazione islamica. Io mi accontenterei di avere regole, di controllare chi entra e chi esce in Italia. Quindi diamo delle regole anche a Trump. Non mi permette, Trump vale 10 Salvini, dai. Grazie 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS, pubblicità. Mix 24. Allora Mario, titolo di Salvini? Sempre determinato, molto deciso, ovviamente, chiaro, anche efficace nella comunicazione. Faccio un calembour. Si Salvini chi può. Si Salvini più chi può. Sì. E tu, Pietrangelo, che titolo fai? Il titolo? Ni alla NATO, ni all'Europa, Picchetti a Bruxelles. Sì, e allora sentiamo la canzone. No, prima di sentire la canzone... sentire la canzone, un attimo di raccoglimento, facciamo un minuto, 30 secondi di silenzio per accompagnare il silenzio, celebrare il silenzio della nostra camera, e questo luogo di assenza di lavoro? Eh sì, non lavorano fino al 15. In piedi? Silenzio. Zitti. La camera non lavora. Ma in piedi o seduti? Seduti. Seduti. No. In piedi. No. Zitti. Seduti. Basta. Vabbè, non si può fare niente di serio. Zitti, allora, zitti. Dammi la tua canzone, Pietrangelo. E allora capita, dopo questo silenzio, dopo questo silenzio capita che non ci si capisca sul finire della settimana, e capita che con i fine settimana lunghi gli amori diventino graticole e struggente, il racconto dell'amore ridotto a pezzi. E stamattina ha chiamato Guido Crepax e ha chiesto questo brano per Valentina con un messaggio: il Kandinsky non è un falso. Kandinsky, l'idraulico, chi è? No, insomma. Sai che tutti volevano fare i giornalisti culturali, no? Allora venivano a me, di cosa vuoi scrivere? Di cultura. E io dicevo, ma di cosa in particolare? E un giorno uno mi disse: Kandinsky, e io non lo conosco. Così, e lui com'è rimasto? Se ne scappò. Era un'arma efficacissima. Vabbè. Vai con la tua bolla, Mario. Dai. Una bolla. Allora. Gloria Guerrera stamattina ha fatto una selezione con me, dai, è stata brava. Ha scelto gli Smiths, che sono un gruppo storico. There is a light that never goes out. Mi stavo in carta a lingua. Allora, no, Giovanni, è vero, la camera è chiusa fino al 15 e il nostro silenzio, come dire, è stato così partecipe, soprattutto grazie a Buttafuoco che aveva il dilemma del in piedi o seduti. Poi la scusa è che devono esaminare la legge di stabilità alla camera, quindi non possono fare sedute appunto fino al 15, ma il Senato lavora. Oggi c'è la questione di fiducia sulla legge per l'omicidio stradale, è una cosa importante. Sì, noi ne abbiamo parlato, abbiamo fatto una puntata ed è per questo che io lo ricordo. Ci sono pene molto severe e naturalmente noi speriamo tutti che questo serva a diminuire la strage nelle strade italiane. Parliamo di numeri da guerra, sono oltre 3.000 morti l'anno. Tantissimo. E bisogna auspicare che venga applicata e vedremo. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666. L'SMS, intanto continuano i commenti naturalmente all'intervista di Salvini, di ogni tipo. Intervista genuflessa, qualcuno dice, altri fanno i complimenti, altri invece dice che Salvini convince perché è convinto. E poi bisogna chiarire a Salvini che laicità non vuol dire sbarazzarsi di Dio, non mi sembra che abbia detto questo sinceramente. E poi qualcuno dice perché non gli ho chiesto della sua laurea, l'ho detto nella presentazione addirittura, che dopo 14 anni non l'aveva preso. Bisogna ascoltare con attenzione, poi firmarsi quando si scrivono i messaggi, perché sennò non è educato. E intanto Salamino. Giubileo della misericordia, giubileo della misericordia, un flop, niente paura, neppure la paura potrà fermare le folle festanti che sono già in partenza per l'altro giubileo, il giubileo... È qui la festa! Il giubileo della Leopolda! Quando è? Eh sì, perché 50.000 pellegrini per l'apertura della Porta Santa sono stati un flop da giudicare dai giornali, dalla lettura e dagli analisti, però neppure la paura ferma i torpedoni, le biciclette, i pattini, i treni e i pedibus calcantibus in marcia verso Firenze. Bergoglio, insomma, può stare tranquillo, Matteo Renzi sa il fatto suo, no. E l'assemblea dei renziani nella vecchia stazione di Firenze sarà un giubileo come mai se ne sono visti nella storia. Ma che aspettate a batterci le mani, a mettere le bandiere sul balcone? Allora, Giovanni, Mario, Matteo Renzi, sapete, forte della propria modestia, ha consentito di fare ingresso sulla sedia gestatoria, proprio come Bonifacio VIII, e a sostenerlo sapete chi ci sarà? Chi? Chi ci saranno, chi? Anzi, perché sono ben quattro. Allora, col direttore del TG1 a destra, no, con Johnny Riotto a sinistra, dietro ci sarà il neo direttore di Repubblica, ma Mario Calabresi, no, e poi dall'altro lato anche l'ex direttore della Stampa, sempre Mario Calabresi, che con le braccia spalancate a forbice dirà così: totus tus, dirà a Matteo Renzi. E poi le novità saranno tante alla Leopolda, per esempio la Maria Immacolata Ciauchi portata in vincoli verrà sostituita da Lucia Annunziata, che non sarà più la badessa bensì papessa chiamata a rallegrare le folle con benedicenti ed edificanti discorsi. Poi tutti i giornalisti della RAI, Giovanni, arriveranno alla Leopolda vestiti da guardie svizzere per assicurare a tutti la meta ambita, cioè la conclusione dei lavori in tempo per guardare la partita Juve-Fiorentina. È la felicità pura, Renzi, e il giubileo è la Leopolda. Cioè, hai capito come si trasforma un luogo di riflessione, di pensiero, di proposte, in una kermesse così, come dire, mamma mia, è cattivo. No, ma dai, perché? Dai, io lo trovo... No. Secondo me ha una faccia angelica. Sì, no, ci accusano di essere contro Renzi sempre. Noi a difesa l'abbiamo di invitato Salvini, quante volte? No, l'abbiamo invitato 7-8 mila volte. Quindi, in 3 anni. E però, perché noi non gli abbiamo dato la sedia gestatoria? Questa può essere una cosa. Faremo anche questa proposta. Con la ciambella pure. Noi siamo venuti tutti. No, no, vabbè, la non sedia, importa, la sedia gestatoria con la ciambellina. Dai, Filippo, forza. Dai, Filo. C'è la ciambella. E intanto noi che siamo alla ricerca della nuova Italia, abbiamo intervistato attraverso Alessandra Fiori uno dei nuovi mille. Mille speranze, mille vite, mille sogni, mille destini, quando si incontrano fanno scintille, fuori dai riflettori si muove il nuovo stretto dentro al cuore, che la politica sia ancora un'occasione. Maurizio Spinello, 37 anni, siciliano, ha aperto un forno a Borgo Santa Rita, un paese fantasma nelle campagne vicino Caltanissetta. Lei rifornisce alcune delle gastronomie più raffinate d'Italia, ha vinto anche il premio Best in Sicily. Ma cos'ha di particolare il suo pane? Di particolare il mio pane è fatto con dei grani antichi siciliani, sono dei grani che non sono stati geneticamente trasformati, ma è il grano di una volta, quello che si coltivava anticamente. E anche è diversa la molitura, è molito a pietra, non è con una molitura moderna come quella a cilindri che si surriscaldano tantissimo le farine, e quindi è un prodotto completamente genuino e biologico, è un prodotto biocertificato e dà dei risultati eccezionali. Ma è vero che si mantiene anche 15 giorni? Sì, il nostro pane riesce a mantenersi anche 15 giorni, anche di più. Rafferma giornalmente e ogni giorno cambia gusto e sapore, ma rimane sempre buono. Senta, adesso a Borgo Santa Rita fa anche corsi di panificazione, ma chi sono i suoi allievi? Ah, noi abbiamo fatto corsi di panificazione naturale. I miei allievi sono francesi, sono giapponesi, sono venuti spagnoli, ragazzi della Sicilia, di Roma, di Milano. Senta, insomma, ma piuttosto che emigrare, lei ha deciso di provare a ripopolare Borgo Santa Rita. Ci sta riuscendo? Ma questo è il mio sogno, è quello che sto facendo già dal 99, che ho aperto l'attività. Questo sarebbe il mio sogno, perché è un borgo meraviglioso. Ci sto riuscendo, è difficile, però ci sono moltissime persone che vengono a trovarci, che stanno con noi, che ci stanno aiutando. e quindi ci stiamo provando. Senta, il prossimo passo, il pastificio? Il pastificio già l'abbiamo aperto, produciamo una pasta sempre fatta con i grani antichi siciliani, essiccati in maniera lentissima, trafilata in bronzo, e già sta funzionando abbastanza bene. Grazie Maurizio Spinello, e per saperne di più sulla sua storia e sulle altre della rete di Italia che cambia, www.italiachecambia.org. Mille speranze, mille vite, mille sogni, mille destini, quando si incontrano fanno scintille, fuori dai riflettori si muove nuovi mille. Una bella storia di base. Posso, posso aggiungere? Aggiungi. Borgo Santa Rita si chiama Borgo Pisacane ed è città di fondazione. Chi la fondò? Facciamo questo quiz degli ascoltatori? Vogliamo fare il quiz? Eh? Sì, sì, perché sennò poi arriva la Digos. Vabbè. Siciliano misterioso. E no, il fondatore di Borgo Pisacane, ribattezzato, lui ha detto meraviglioso, quindi basta. Io sottoscrivo. Sottoscrivi. Vabbè, vai Mario, vai sì. Con un'altra bolla. Giovane, il brano è di Baustelle, la guerra è finita, ma finché c'è guerra c'è speranza, c'è qualcuno, e in realtà è il Monopoli che non finisce mai. Ve lo ricordate, no? Che si metteva, come no. Compro un albergo, lo piazza al largo della Vittoria, anzi al parco della Vittoria, bisogna essere precisi su queste cose, e vivo di rendita. E il business degli alberghi è molto interessante. Nel giro di un mese, segnalo per gli appassionati delle cose economiche che cambiano un po' impattano sulla nostra vita, c'è stata Marriott che ha comprato la catena di Starwood, sono 12 miliardi di operazione, e oggi c'è la notizia invece molto interessante anche questa, che i francesi di Accor comprano gli alberghi di Fairmont Raffles e Swiss Hotel per circa 2,9-3 miliardi. Parliamo di un gruppo di hotel tra i più belli del mondo. Le prospettive, nonostante il terrorismo, la prospettiva anche di una, diciamo, di un rallentamento dell'economia globale nel 2016, restano molto positive. Accor ha un sacco di cassa a disposizione, tra l'altro, per fare ulteriori operazioni se volesse. Secondo me c'è un domino in corso. Arriveremo anche all'albergo unico, insomma, mi pare di capire. Adesso sei sempre quasi su questa cosa del titanismo, però certo, no, io sì, titanismo, 12 miliardi. Le concentrazioni anche in quel settore sono importanti, perché sono importanti, fanno fare perché? Perché fai risparmi, certo, fai risparmi sui servizi, sugli appunto, acquisti. Alla fine, se fosse uno solo. Anche la qualità solitamente insomma, è migliore. Quindi dobbiamo auspicarla questa cosa. Poi tu ti fai il tuo alberghetto di charme, appunto, no? Che è meglio. 800 24 00 24, numero verde, 349-238-6666, l'SMS pubblicità. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta Mix 24. Canzoniere. Se appena ti vedo, subito non posso più parlare. La lingua si spezza. Un fuoco leggero sotto la pelle mi corre. Nulla vedo con gli occhi e le orecchie mi rombano. Un sudore freddo mi pervade. Un tremore tutta mi scuote. Sono più verde dell'erba e poco lontana mi sento dall'essere morta. Ma tutto si può sopportare. Era quella di ieri, l'abbiamo ripetuta, e abbiamo Margherita da Pescara. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Margherita. Buongiorno. Allora? Lode del sublime di Saffo. Accidenti. Saffo, giusto. Bravissima. Grazie. Che fa Pescara di bello, Margherita? Tra una settimana ho l'esame di Stato da avvocato, quindi da avvocato, per ora. Quindi sta a casa a studiare? Sì. È duro l'esame? Abbastanza. Sì. Che altro, vabbè, se si è fatta la pratica non dovrebbe essere troppo difficile. Quanti anni di pratica ha fatto? Un anno e mezzo, perché vabbè, in realtà due di fatto, perché ho cominciato a febbraio dell'anno scorso. Bene, auguri allora per il suo esame. Intanto mandiamo l'anteprima del giallo della storia. Io ho sentito un gran botto, un boato tremendo, e poi la sensazione del buio. C'erano ancora pezzi di corpi martoriati, c'erano tanti feriti, c'erano ancora delle fiammelle di fuoco, c'erano cambiali, soldi, pezzi di suppellettili. Ho visto un cliente che conoscevo che mi si è aggrappato ai pantaloni e che strisciava per terra in un lago di sangue. Il sangue di Abele sparso a macchie enormi offende questa mia città di Letta. Così Paolo VI, che di Milano era stato arcivescovo, piange le vittime della strage di Piazza Fontana. Il sangue degli innocenti, 17 morti, 88 feriti in un pomeriggio d'inverno del 69. Milano, Banca dell'Agricoltura, è il 12 dicembre. Così ha inizio la strategia della tensione, gli anni bui della democrazia italiana. Eppure, dopo quasi mezzo secolo di processi, depistaggi, condanne, assoluzioni, siamo ancora qui a interrogarci e a cercare la verità. Piazza Fontana, la strage, i testimoni, i documenti, i misteri, a Mix24, il giallo della storia dopo il giornale radio. Ecco, intanto adesso con il professor Roberto Bernabei commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. Annals of Internal Medicine, 20 ottobre 2015. Effetto del consumo moderato di alcol sul rischio cardiometabolico in adulti con il diabete di tipo 2. Sappiamo tutti che il consumo moderato di alcol, vino, è in qualche modo protettivo nei confronti del rischio cardiovascolare. Ma cosa succede in chi è che questo rischio cardiovascolare ce l'ha aumentato per definizione e un po' ci ha aumentati tutti i rischi, come il diabete di tipo 2, cioè il diabete che si prende in età adulta per eccesso di rischio metabolico, perché si è mangiato troppo, detta un po' male, ma insomma per capirci. Allora, qua per due anni è stato supplementato una popolazione con 150 millilitri al giorno di vino bianco, di vino rosso o di acqua. Quindi tre gruppi, vino bianco, vino rosso e acqua, di gente che per due anni cenava con queste sostanze e con la consueta dieta mediterranea. E si andava a vedere le cose più normali, come era la glicemia, i lipidi, la pressione, i marcatori di insufficienza epatica, l'uso di farmaci e la qualità della vita. Bene, dopo due anni si è visto che il rischio cardiometabolico continuava a diminuire modestamente in tutti e tre i gruppi, nel senso che quindi non c'era un effetto dannoso da parte dell'alcol, anzi vino rosso come sempre un po' meglio di vino bianco, e naturalmente c'era una migliorata qualità e quantità del sonno in chi è che beveva l'alcol. Come sappiamo tutti, c'ha un effetto ipnoinducente. Beviamo alcol a gogo? No, a gogo, moderato. Moderato. E per chiudere, Gloria Guerrera ha scelto La musica è finita, cantata da Ornella Vanoni al Festival di Sanremo del 67. Ecco, la musica è finita, gli amici se ne vanno, che inutile serata, amore mio, ho aspettato tanto per vederti, ma non è servito a niente, niente, nemmeno una parola. Accenno ad un saluto, ti dico arrivederci.